sé yo, viene lento divagar una música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Questa mattina parliamo di qualcosa di cui molto difficilmente si parla e se ne parla molto poco volentieri, anzi diciamo che è uno dei tabù residui della nostra civilizzazione. Provate a riflettere sul fatto che uomini possono mangiare altri uomini. Pensate alla figura del cannibale, di colui che si nutre di carne umana. Beh, non esiste nulla di più indicibile, nulla di più ripugnante, nulla di più fastidioso da concepire e da elaborare. Immaginate che esista comunque una fitta letteratura psicoanalitica per cui viene trasformato in una pulsione metaforica il fatto che i padri vogliano divorare i propri figli, che esista un conflitto generazionale nato dal fatto che molto difficilmente le generazioni adulte precedenti, quelle che dovrebbero cedere il passo, vorrebbero cedere il passo al frutto, alla loro progenie, al frutto appunto della loro discendenza. Non è nemmeno molto difficile spiegare questa metafora alla luce degli avvicendamenti in Italia, nei posti che contano, nella politica, nelle direzioni dei giornali. Sembra quasi che il complesso fondamentale del padre deve rimanere sempre al suo posto abbia sclerotizzato una classe dirigente dominante nei propri posti. I figli dove sono? I figli non ci sono, i figli se li sono mangiati. Pensate pure altrimenti al fatto che questo divorarsi, questo mangiarsi che abbiamo così facilmente attribuito anche nella letteratura fantastica, nella letteratura erotica, ti vorrei mangiare perché ti amo troppo, ti vorrei divorare, l'atto sessuale in sé è pieno di sottili rappresentazioni del divorare, del mangiare, di pascersi della carne dell'amato, della persona che abbiamo vicino in quel momento. Immaginate che tutto questa grande, meravigliosa e anche poetica metafora del divorarsi l'uno tra gli altri non affondi tanto su qualcosa che ci siamo costruiti perché amiamo trasformare in meraviglioso racconto ciò che sentiamo dentro di noi, ma affonde le sue radici in qualcosa che realmente è accaduto, che a un certo punto della nostra evoluzione i nostri progenitori amassero tranquillamente, considerasse cosa abbastanza normale o perlomeno usuale, mangiarsi tra di loro. Crono era il più giovane dei titani, i sei fratelli e le sei sorelle tutti giganti, figli di Urano il cielo e Gea la terra. Crono aiutò la madre Gea a liberarsi del padre Urano, che giaceva costantemente su di lei, impedendo ai figli concepiti di uscire dal suo grembo. Crono evirò il padre con un falcetto, gettò l'organo amputato nel mare e prese il posto di Urano alla guida del mondo. Poi cacciò i fratelli e li confinò nel Tartaro. In seguito sposò la sorella Rea, con la quale generò i principali dei del Pantheon greco. I genitori, però, avevano predetto a Crono che sarebbe stato a sua volta detronizzato da uno dei suoi figli. Per evitare di perdere il potere, così come era capitato a suo padre Urano, spodestato da Crono stesso, il dio prese a divorare i piccoli figli via via che Rea li partoriva. Questa partorì Demetra, Era, Estia, Ade e Poseidone, tutti divorati da Crono. Mi si dirà che rivolgermi a un così lontano e arcaico modo di esprimere la conflittualità fra padre e figli come quello del mito di Crono è semplicemente un importante riferimento simbolico, ma in realtà tra gli uomini accade diversamente. Io già vi dico subito che potete chiamare all'800 24 00 24, ma non prima di aver analizzato a fondo cosa possa esserci all'interno della vostra coscienza che vi porta o vi ha portato in alcuni momenti della vostra vita ad essere colti dal timore di essere divorati da qualcuno o di aver mai provato il desiderio di divorare, non soltanto metaforicamente, un altro essere umano. Infine diede alla luce Zeus, il suo terzo figlio maschio, affidandolo alla madre Gea. Al posto di Zeus, a Crono, invece, era stata recapitata una pietra avvolta in fasce. Zeus, una volta cresciuto, somministrò a Crono un veleno che gli fece vomitare tutti i figli ingoiati. In seguito, dopo una guerra intrapresa insieme ai fratelli liberati, riuscì a sconfiggere il padre, a rinchiuderlo e ad affidarlo alla custodia degli Ecatonchiri, i giganti centimani, per l'eternità. Ho in studio con me il professor Wolfgango Lusetti, che è uno psichiatra e primario del reparto psichiatrico dell'ospedale di Tivoli, ma è particolarmente interessante per un suo studio, devo dire piuttosto eterodosso, infatti non se ne ha grande notizia in giro tra i suoi colleghi, però secondo me è molto interessante. Ha scritto vari libri, tra cui Il cannibalismo e la nascita della coscienza, Armando Editore, 2008, l'ultima edizione. Professor Lusetti, buongiorno. Buongiorno. Mi sembra di aver capito, il suo è un tomo molto corposo, che il suo pensiero è che in fondo, dietro questa sorta di lettura in chiave psicoanalitica del mito di Crono, riemergere e riaffiorare continuamente della parola, dell'espressione il divorare, ti divorrei, ti mangerei, i padri che si mangiano i figli che non vogliono essere mangiati dalle madri, non ci sia soltanto delle meravigliose e divertenti proiezioni letterarie del nostro immaginario, ma ci sia una realtà concreta. Esattamente, io partirei proprio dal mito di Crono che abbiamo appena ascoltato, perché mi sembra interessante una considerazione. In genere questo mito viene interpretato in termini simbolici, cioè la cosa che viene detta è che Crono non è altro che una metafora del tempo, il quale mangia i propri figli e quindi fa morire tutte le cose. E questa è una cosa molto curiosa, perché il mito, sia greco che universale, è letteralmente cosparso di riferimenti al cannibalismo, che di solito vengono interpretati in questa chiave, cioè in una chiave simbolica, ossia si ritiene di poter spiegare questa simbologia semplicemente con se stessa. Ecco, io parto da una considerazione molto elementare, cioè non mi sembra corretto dal punto di vista metodologico spiegare un qualcosa di complesso ricorrendo a qualcosa di altrettanto, se non più complesso. Spesso, per esempio, la grande aggressività che è propria dell'uomo viene spiegata sulla base dell'intelligenza. Questa è una caratteristica delle religioni, ma anche della filosofia. Hobbes spiega il suo Homo homini lupus esattamente in questo modo. Però questa è un'inversione del nesso causale corretto, cioè non si può spiegare una cosa complessa se non a partire da una cosa più semplice, perché queste sono le leggi dell'evoluzione. Ecco, ci sono quindi un altro livello di spiegazione. Mi sembra di aver capito che esiste un momento fatale nella storia dell'evoluzione dell'uomo, certamente non certificabile sempre con prove concrete, ma con piccoli indizi, elementi che gli studiosi mettono assieme, in cui esisteva esattamente questo quadro. In un particolare momento della fase dell'umanità, in particolari zone del nostro pianeta, ci fu o c'è stata per vari periodi una grande carestia, un grande bisogno di cibo, soprattutto di proteine. Quindi il nucleo familiare, come si sta organizzando allora, è trovato di fronte al problema che le madri dovevano salvaguardare la loro progenie dai padri che in realtà bisognosi di proteine per cacciare, per vivere, fare la loro vita comunque da uomini e guerrieri, si mangiavano i figli. Esatto, c'è da dire però su questo che ovviamente siamo di fronte a un tema molto controverso, gli studi in proposito sono scarsi e sono contraddittori fra di loro, a fianco di uno studioso come Eval Follard che raccoglie una miriade di testimonianze sul cannibalismo di popolazioni non ancora estinte, o esistono altri studiosi come Arendt che ha invece una linea molto più riduttivistica o negazionistica, quindi siamo sul terreno dell'opinabile evidentemente. Quello che si può dire è che la paleontologia e l'antropologia offrono degli indizi, se non altro, no? di un possibile filo di svolgimento degli eventi. Intanto c'è da dire che in quasi tutte le specie carnivore esiste allo stato sporadico un cannibalismo dell'adulto nei confronti del piccolo, che è finalizzato soprattutto a un vantaggio genetico, a fare spazio ai propri geni, oppure a far fuori, per così dire, la prole malformata. Chiaramente accanto a questo vantaggio ce n'è un secondario, insomma, uno secondario che è quello di tipo alimentare, perché la prole costituisce una riserva di proteine pregiate a basso costo, perché divorarla implica uno scarso rischio. Allora, questi due fattori possono essersi uniti fra di loro e essersi implementati in una specie come la nostra, che all'improvviso da erbivora qual era è divenuta carnivora, e questo già era una condizione che la predisponeva a questo ulteriore salto. Il nostro apparato digerente non è un apparato nato per essere per digerire proteine animali, è nato per le proteine vegetali. Però tornando un attimo alla sua figura di psichiatra, come potremmo, non dico spiegare, ma raffrontarci, visto che non abbiamo paura delle idee, nemmeno delle ipotesi, ma ci piace avere sempre un ventaglio più vasto possibile di suggerimenti e di stimoli. Alcuni modelli di forte aggressività all'interno delle famiglie, cioè padri violenti, padri maneschi, madri che devono necessariamente fare degli sforzi sovrumani per salvaguardare i figli dalla violenza dei padri. Lei prima mi citava un film, Shining. Sì, Shining. In Shining si vede esattamente questo, cioè si vede la predazione di un padre nei confronti di un figlio, che però non riesce, grazie alle facoltà di questo figlio, che sono di tipo percettivo, di tipo quasi psicotico, allucinatorio, e grazie soprattutto all'aiuto della madre. Per cui la scena finale di questo film magistrale, secondo me, di Stanley Kubrick, è quella in cui questo ragazzo si salva all'interno di una sorta di labirinto, che è un giardino appunto a forma di forma molto tortuosa, e viene poi accompagnato via dalla madre. Quindi questo è un esempio. Io volevo fare però una premessa, anche su, cioè una brevissima precisazione sul motivo per cui sono arrivato a questa ipotesi cannibalica. Ecco, io in realtà non ci pensavo affatto. La mia è la professione di psichiatra, quindi è stato proprio esaminando la psicopatologia. Io mi sono accorto che la psicopatologia è qualcosa di estremamente caotico. Nonostante sia stata esplorata da personalità geniali, si vede come queste analisi si siano soffermate ai livelli formali del pensiero e della sua deformazione. Quello che è sfuggito totalmente è un elemento che unifica tutte le forme psicopatologiche, che è il fattore persecutorio. Io sfido qualunque mio collega, a qualunque livello accademico appartenga, a trovarmi una sola forma psicopatologica che non sia letteralmente intrisa di elementi persecutori. Quindi questi elementi attraversano tutta la psicopatologia, andando dalle perversioni sessuali, la pedofilia, ai disturbi anoressico-bulimici. E il nesso quale sarebbe allora con il cannibalismo, il fatto sia il senso persecutorio? Ecco, io mi sono chiesto per quale motivo esiste questo fattore persecutorio alla base delle forme psicopatologiche. Evidentemente è un pattern ancestrale che emerge quando esistono delle condizioni che possono essere più svariate di lesione del sistema nervoso. Perfino nelle demenze c'è l'emersione di questo pattern. Quindi evidentemente la nostra specie si è calibrata fin dall'inizio nel senso dell'allarme antipersecutorio, e quindi mi sono chiesto: ma quale può essere questo fattore persecutorio che è alla base della nostra mente? Che nostro padre ci voleva mangiare. Ecco, e allora mi sono accorto con grande sorpresa che, esplorando il folklore, la mitologia, l'antropologia, eccetera, venivano fuori evidenze ancora maggiori di quelle che fornisce la psicopatologia in questo senso. Evidenze che curiosamente erano state totalmente ignorate e misconosciute. Allora guardi, professor Lusetti, visto che dobbiamo fornire ai nostri ascoltatori esempi alla portata della loro esperienza, ne manderò uno senza annunciarlo, che aprirà a tutti una improvvisa fulminazione su quello che lei sta dicendo. C'erano una volta un boscaiolo e sua moglie che avevano 7 figli, tutti maschi. Il maggiore aveva 12 anni, il più piccolo 6, e si chiamava Pollicino. Pollicino, e voi tutti figlioli, preparatevi, andiamo nel bosco a fare legna. Dovete sapere che la sera prima il boscaiolo e sua moglie avevano deciso in gran segreto di abbandonare i figli nel bosco perché non sapevano più come sfamarli. Pollicino però, nascosto sotto una panca, aveva sentito i loro progetti. Il mattino dopo, l'intera famiglia di Pollicino era già nel profondo... Certo, risentire e riascoltare le favole in età adulta ci si rende conto del fattore profondo di crudeltà che avevano. Qui una famiglia composta da due genitori e tanti figli, non avendo mezzi di sostentamento, decide di portare i figli e abbandonarli nel bosco. I bambini vanno nel bosco, naturalmente vanno ad incontrare quel ancestro spaventoso di cui parla il professor Lusetti, che ci fa ci fa alzare delle barriere profonde verso il senso di persecuzione. Chi è se non l'orco? Oh, misericordia, 7 bambini, scappate in fretta, questa è la casa dell'orco. Se vi vede, vi mangio in un boccone. Venite dentro ad asciugarvi. Apri, moglie, mi voglio asciugare. È un montone intero a mangiare. Chi è? È l'orco. Presto, scappiamo. Io sono l'orco della favola. Ho una pancia spaventosa. Mi piacciono i bambini tondi e piccolini, mi piacciono fatti al forno, patate di contorno, mi piacciono pure Alesso con salsa, lo confesso. Se è vero che gli ancestri emergono senza che noi ce ne accorgiamo, la favola di Pollicino, di cui siamo stati tutti nutriti, in realtà racconta esattamente quello che ci sta dicendo il professor Lusetti. L'orco che gode si bea, a sua volta padre, del fatto che lui è goloso di bambini. Mando subito il finale terribile della favola di Pollicino per poterla analizzare poi nella sua struttura. Pollicino e i suoi fratellini sono così infami e così già sulla linea di essere anche loro, quando cresceranno, divoratori di bambini, che si sostituiscono alle figlie dell'orco. Potrebbero scappare tranquillamente, fuggire via dicendo, quando l'orco li mette in allevamento per farli ingrassare e mangiarli quando sono a puntino, pronti per essere divorati. E quindi l'orco a questo punto compie quello che profeticamente non potrebbe fare a meno di compiere: si mangia le sue stesse figlie. Eccomi, venite fuori, fatemi vedere. 7 bambini, come siete belli. Sì, ma sono anche magri. Non penserai per caso di mangiarli così. Hai ragione, brava moglie. Prepara subito una bella cena per questi piccoli. Sai bene che a me piacciono grassi. Va bene, marito mio. Infatti, quando tutti i fratellini furono sistemati in un grande letto proprio vicino a quello delle orchessine, egli zitto zitto si alzò. Adesso piano piano, per non svegliare nessuno, scambio le coroncine d'oro delle orchesse con i nostri berretti da notte. Ecco arrivare l'orco ed entrare di soppiatto nella camera. L'orco toccò le teste dei fratellini e, sentendo che avevano le coroncine, li scambiò per le orchesse, quindi passò all'altro letto. Ormai sicuro del fatto suo, tagliò la testa alle 7 orchessine. Bisogna camminare in fretta. Silvana De Mari, buongiorno. Buongiorno. Silvana De Mari è una scrittrice fantasy, tradotta in tutto il mondo, ma anche medico e psicoterapeuta. Ha scritto vari libri, tra cui Il drago come realtà e significati storici e metaforici della letteratura fantastica. Lei, leggendo e analizzando la favola di Pollicino, si è domandata se a monte di questa favola ci fosse qualcosa accaduto realmente? No, non me lo sono domandato, ne ero certa. La fiaba di Pollicino e ancora peggio la fiaba di Hansel e Gretel sono fiabe che inalano il cannibalismo. Nelle grandissime carestie, sicuramente successo in Germania nella guerra dei 30 anni, sicuramente successo in Ucraina sotto Stalin nel 1932, prima di morire di fame si mangiano i cadaveri. Prima di morire di fame si riconvertono i viventi in cadaveri così da poterli mangiare, e ogni bambino è costituito da parecchi chili di ottime proteine. Le grandi fiabe classiche ci raccontano il dolore dell'infanzia, e nella figura metaforica dell'orfano è rappresentata il bambino non amato dai genitori. È terribile da dirsi, ma quando la miseria è molta e la mortalità infantile è molto alta, l'amore materno è più piccolo. Se io ho 10 figli e 2 mi muoiono di fame e uno di colera, e io muoio per la disperazione, chi baderà gli altri 7? Quindi è un meccanismo evoluzionistico. I bambini possono addirittura essere abbandonati, come succede per esempio ai Niños de Ruas attualmente. Di conseguenza le grandi fiabe classiche ci raccontano come il bambino possa essere assassinato, Biancaneve, massacrato di lavoro, Cenerentola, venduto in cambio di cibo alla Peronzolo, abusato sessualmente, pelle d'asino può direttamente diventare cibo. Ecco, professoressa, siccome devo lasciare la linea all'informazione della borsa e ci sentiamo tra un istante, però volevo aggiungere a quello che lei sta dicendo un altro episodio molto legato alle moderne cronache o moderne mitologie. Molte volte il confine è molto labile. Quello dei bambini presi e rubati per essere depezzati, per essere serbatoi di organi di ricambio. Visto che oggi la civilizzazione che viviamo ci permette di rimontarci dei pezzi di ricambio, il bambino ancora una volta diventa un serbatoio di materie prime per gli adulti che vogliono sopravvivere. Ahimè, stiamo seguendo un percorso piuttosto impervio e piuttosto difficile. Stiamo cercando di collocare alcuni episodi che appartengono alla nostra letteratura del fantastico, alla nostra mitologia, alla nostra storia dell'antropologia, alle nostre religioni, a elementi che storicamente, a seconda dell'epoca in cui sono prodotti, quindi esiste un margine di certezza più o meno labile, abbiano segnato profondamente l'esperienza umana. Elementi che ci portiamo nel nostro patrimonio genetico, teniamo chiusi come fossero dei file segreti che abbiamo secretato e non vogliamo nemmeno aprire perché ci terrorizzano nella nostra coscienza, ma riemergono nei racconti mitologici, riemergono nelle favole, riemergono nei film. Riemerge il fatto che in alcune fasi di particolare bisogno, di risorse, proprio di cibo, l'umanità non si è fatta scrupolo, cioè l'umanità, cioè noi, quello che abbiamo dentro di noi, il patrimonio di chi ci ha preceduto nell'avventura terrena, non si è fatta scrupolo di mangiare altri esseri umani. Il pasto inizierà con una hors d'oeuvre tartare. I suoi piedi. Il piatto forte, il resto del suo corpo sarà servito solo 7 ore dopo. Ma durante questo tempo potrà godersi tranquillamente gli effetti dell'antipasto consumato, corroborato da una flebo di soluzione salina. Forse avrebbe fatto meglio a darmi tutto in pasto ai cani. No, Mason. No, ti preferisco così come sei. Bene. Si cena alle 8. Hannibal Lecter è stato un personaggio portato alla ribalta da un paio di film. Un film e un sequel. È la storia di uno psichiatra talmente geniale, talmente raffinato, talmente oltre tutti i limiti e le pruderie, i tabù che ha un essere umano non dotato di intelligenza eccezionale, ad arrivare al punto di considerare il cannibalismo come una forma espressiva superiore. Essere anche in questo caso non soltanto frutto della fantasia, ma costruito attraverso alcuni personaggi, serial killer, presi da vari episodi di cronaca. La cronaca è piena di esseri apparentemente anonimi o dotati di qualità superiore alla norma che, come esercizio patologico sicuramente, qua non vogliamo giustificare gli uomini che si mangiano tra di loro, però hanno riportato alla luce questa maniera passata, antica, ancestrale, atavica, che avevano gli uomini di risolvere alcuni loro problemi. Ricordo l'ospite in studio, il professor Wolfgang Lusetti, che è uno psichiatra, che è autore di un libro appunto sul cannibalismo e la nascita della coscienza. Professor Lusetti, alla luce di quello che stiamo già dicendo adesso, facciamo altre considerazioni per riportarlo in termini accettabili. Vedo che immagino che la reazione del pubblico sia quella di disgusto. Ci rifiutiamo di pensare che noi possiamo essere assassini, ci rifiutiamo di pensare che noi possiamo essere attraversati dal demone della perversione, ci rifiutiamo sopra ogni cosa di pensare che dentro il nostro patrimonio genetico esista quel particolare elemento che potrebbe trasformare noi in cannibali. Sì, mi sembra molto giusta questa questione, questa preoccupazione, ma in effetti esistono degli elementi più confortanti, ecco, in una sorta di eterogenesi dei fini, dal male spesso nasce il bene. E in effetti, se l'ipotesi che io formulo nel libro è esatta, la specie ha elaborato dei potenti contrappesi anticannibalici e antipredatori. Noi non siamo soltanto cannibalismo. Il cannibalismo, se la mia ipotesi è esatta, è stato un motore che in qualche modo ha acceso lo sviluppo della nostra specie in due direzioni. Una è stata quella del divenire permanente della sessualità. Noi siamo l'unica specie che ha una sessualità permanente, che ha superato l'estro. Oltre l'estro femminile, certo. Ha superato il momento in cui la femmina visibilmente mandava segnali anche olfattivi e visivi al maschio e quindi accendeva dei tornei fra i maschi per avere accesso alla femmina. Cioè, detto per sdrammatizzare, la donna la dà più facilmente all'uomo per distrarlo dal fatto che si mangi i figli. Esatto, e questa è un'ipotesi che è stata formulata fra l'altro da un'antropologa illustre, Sarah Bleffer Hardy, una californiana del 46, anzi una texana per essere precisi, la quale ha proprio enamorato una serie di ipotesi sul perché proprio la nostra specie abbia superato l'estro e sia divenuta perenne nella sua espressione sessuale. E la sua ipotesi preferita è per l'appunto questa, cioè che il maschio sia stato distratto inizialmente almeno da questa sessualità perenne della femmina, dalla sua attenzione cannibalica rispetto alla prole. Però ecco, una delle cose che bisogna dire, secondo me, è che questa difesa, la difesa sessuale contro il cannibalismo, un po' come tutte le difese contro la predazione, ha nell'uomo la caratteristica di incorporare la predazione stessa. Per cui la sessualità si è riempita di predazione, si è letteralmente intrisa dell'elemento predatore. Se noi siamo passati dal coitus citus di 20 secondi a una complessità di espressioni fisiche, interiori, esatto, di metafore, che fa sì che l'atto sessuale oggi sia qualcosa che corrisponda perfettamente a un atto cannibalico. La passione nella sua fase più estrema è il divorare un'altra persona. Sì, questa è la fase più estrema. Bisogna dire che la sessualità ha padroneggiato in maniera eccellente il cannibalismo, però le perversioni sessuali sono una traccia imponente ed evidente del fatto che il compito della sessualità è stato questo e che la sessualità ha assorbito il cannibalismo. Il sadomasochismo è l'espressione più evidente di questo, ma la pedofilia è un'espressione ancora più evidente. Assolutamente. Il pedofilo, cioè, è un cannibale fondamentalmente, e l'unico motivo per cui insidia sessualmente il bambino è per evitare di ucciderlo, tant'è che spesso arriva poi a questo atto estremo quando l'atto non riesce o quando ci sono ostacoli o cose di questo genere. Quindi questo è un pochino il quadro del rapporto fra sessualità. Io vorrei riportare anche con la professoressa Silvana De Mari, che ricordo che è una scrittrice e un'esperta di letteratura fantasy, il tema in alcune espressioni letterarie. Invece tutto quello che stiamo dicendo con lo psichiatra che abbiamo in studio, lei lo ritrova comunque nelle narrazioni, non soltanto per ragazzi ma in generale nel racconto fantasy, queste madri che devono compensare con l'attenzione fisica il fatto che i padri vogliono divorare i propri figli? Certamente, ma non c'è solo il problema che i padri vogliono divorare i figli. I padri hanno anche una seconda grande funzione, ed è quella di proteggere i figli dal fatto che li divorino qualcun altro, che i figli vengano divorati da qualcun altro, e questa sì che è fondamentale. Aveva ragione Hobbes, comunque siamo tutti lupi affamati e dobbiamo guardarci da noi stessi. Allora, sì, certo, Hobbes, tutti quelli che hanno parlato del cervello umano è quello che più ci ha azzeccato. Il neurofisiologo MacLean ci ricorda che il nostro cervello è diviso in tre parti: il cervello rettiliano, che abbiamo in comune con l'alligatore, il cervello limbico, che abbiamo in comune con il lupo, e solo al di sopra c'è la corteccia, ci sono i due emisferi, ed è lì che può avere l'empatia. Quindi, avendo rinunciato all'istinto a causa di questa ciclopica corteccia cerebrale, noi siamo dei moltiplicatori, noi possiamo moltiplicare la ferocia fino a livelli inauditi e creare Auschwitz, ma noi possiamo moltiplicare anche la compassione a livelli inauditi. Il padre è anche colui che protegge il bambino, e dove non ci sono i padri il bambino non è più protetto. Noi abbiamo la letteratura fantastica, il genere fantasy, che oggi mischia elementi tipicamente maschili del poema epico, il coraggio, la cavalleria, la lealtà, elementi femminili della fiaba, cioè l'amore per il bambino. Attenzione, dove i padri non siano più in grado di proteggere i loro figli, dove il padre abbia rinunciato completamente alla sua forza, il figlio è senza difesa. C'è un'altra forma di cannibalismo del bambino. Mi viene in mente una saga che seguono molto i miei figli, che ha avuto molto successo fino a qualche tempo fa, che è quella di Harry Potter. Harry Potter, al di là del fatto che sia mago, comunque, ha sempre queste figure dei genitori morti che lo proteggono. Il suo antagonista, Draco Malfoy, è un padre allo stesso tempo che lo protegge, ma dalla parte del male, perché appartiene al drago verde, alla parte oscura della forza, come direbbero in altri film. Perfetto, lei ha esattamente colto l'esempio perfetto. Harry Potter è un tipico eroe post-sessantottino, perché è il bambino che deve rimettere al mondo il posto, che dove gli adulti hanno creato problemi inenarrabili, ma contemporaneamente ritorna un grande eroe classico, perché contrariamente a tutta la letteratura per ragazzi post-sessantottina, dove i padri sono scomparsi o se sono presenti solo per essere sbeffeggiati e ridicolizzati, in Harry Potter ricompaiono i padri. Il padre di Harry è morto per lui, il preside è un padre, Sirius Black è un padre, il professor Peter è un padre, addirittura Voldemort è un padre. E in Harry Potter noi vediamo benissimo che noi abbiamo messo nella letteratura fantastica quello che non osiamo guardare in faccia, che sono Dio e la morte. Il Signore degli Anelli parla di Dio e della morte. I sette libri di Harry Potter ci portano come sette cerchi concentrici verso il punto finale, dove ci dicono che se bisogna morire per poter risuscitare, chi non avrà paura della morte avrà la vita eterna. C'è un ultimo tipo atroce di cannibalismo del bambino. Noi abbiamo due tipi di società: le società dove le madri valgono quanto la spazzatura e tutto quello che conta è il passato e le società dove i padri valgono quanto la spazzatura e tutto quello che conta è il futuro. Un albero muore sia quando non ha frutti che quando non ha radici, l'equilibrio deve essere tra i due. Nelle società dove le madri non valgono nulla abbiamo questa estrema forma di cannibalismo che è il bambino soldato. Tutte le volte che voi vedete un bambino che tira sassi verso un carro armato, il popolo della parte del bambino è completamente fuori di testa e si è addirittura rinnegato l'etica minima dell'alligatore che la sua prole la protegge. Mi fa molta specie, ma mi interessa, mi affascina, essendo io mai un moralista del tempo che vivo, ma un osservatore attento, raccoglitore di elementi del tempo che vivo, che sia letteratura fantastica oggi avere preso il posto della teologia. Oggi il senso etico e il senso della comprensione del profondo significato della vita e della morte passa attraverso Harry Potter e un po' meno attraverso le vie ufficiali. Melog 2.0. Ciao Melog, gli zombie non mangiano budella e frattaglie, gli zombie mangiano il cervello umano per lenire il dolore che stanno provando, perlomeno questo nei film principali di zombie è così, quindi mangiano il cervello per come fosse una specie di aspirina per il dolore immenso che provano dell'essere morti, ma deambulanti e vivi, non molto diversi da tanti esseri umani che girano per le strade. Questa musica che sentite è il suono di femori umani suonati da alcuni sciamani durante un rituale di un'etnia Bon pre-buddista del Nepal. Li conosco bene perché l'ha registrato mio fratello che fa l'antropologo e quindi è abbastanza raro ascoltarli. Il femore umano diventa uno strumento musicale, diventa una maniera per stabilire un rapporto nel rituale sciamanico tra i vivi e i morti. Questo è il suono di un femore umano e la telefonata del nostro ascoltatore ci apre l'ultima finestra sui racconti dell'immaginario contemporaneo che sembrano riecheggiare e revocare questo senso profondo, ancestrale che esiste nel nostro patrimonio genetico, come stanno dicendo i nostri ospiti, legato al fatto che in una fase della nostra remota civiltà siamo stati cannibali e in alcune fasi storiche anche vicine a noi, in momenti molto particolari, gli esseri umani si mangiano tra di loro. Poi probabilmente, passato il periodo di crisi, è uno dei segreti che viene maggiormente seppellito nella coscienza degli uomini. Nessun reduce da prigionia, nessun sopravvissuto a carestia, nessuna persona vissuta in condizioni in cui l'umanità sembra dimenticata ammetterà mai, se non dopo tanto tempo, in maniere molto indirette, che possa essere esistita la possibilità di mangiarsi tra esseri umani. C'è il famoso episodio dei sopravvissuti delle Ande, un aereo che era precipitato e sono vissuti attraverso i ghiacci e le nevi per molto tempo, semplicemente perché si è saputo molto dopo, poi c'è stata letteratura, film e via dicendo, ma molto difficile da raccontare, si sono mangiati tra di loro. E l'immaginario contemporaneo, che si articola non soltanto attraverso letteratura, ma anche attraverso vari filoni di film, ha molto calcato, e ultimamente sembra che sia uno dei filoni più interessanti, è questo fenomeno degli uomini che si mangiano tra di loro. La domanda spontanea, la prima domanda che ci si pone, è se sono cannibali. No, non sono cannibali. Il cannibalismo, nel vero senso della parola, implica un'attività tra specie simili. Ma queste creature non si possono considerare esseri umani e non si uccidono tra di loro. Si nutrono soltanto di carne viva. Hanno poca intelligenza e nessuna capacità di ragionamento. Gli restano alcune capacità elementari e hanno reminiscenze di quando erano in vita. Secondo alcune notizie, queste creature userebbero degli attrezzi. Anche in questo caso si tratta di azioni semplici e molto primitive, e cioè l'uso di oggetti come clave o simili. Ma posso dirvi che anche alcuni animali fanno un uso rudimentale di simili arnesi. Queste creature sono guidate soltanto da puro istinto emotivo. Il loro unico motore è il desiderio di cibo, il cibo che li sostiene. Professor Lusetti, psichiatra, autore di un libro molto interessante sul cannibalismo e la nascita della coscienza. Questo è un film molto noto, il film Zombie di Romero, nella versione più conosciuta, in cui gli esseri umani morti cominciano a mangiare i vivi. Esiste anche in questo, secondo lei, qualche riferimento a quelli che sono stati i suoi studi? Sì, io mi sono sempre chiesto il perché esistano alcune regole della narrativa universale, non soltanto di quella horror, in base alle quali l'intreccio si impenna essenzialmente su un incontro con la morte. Esiste uno studioso, Fogler, che in un famoso libro, Il viaggio dell'eroe, dice proprio questo, esamina le strutture della narrativa come incontro con la morte. Ciò che io ho da aggiungere a questo elemento è che mi sembra, anche in base alle evidenze antropologiche a nostra disposizione di antropologia culturale, che noi non percepiamo mai la morte come morte naturale nel nostro inconscio. Noi abbiamo sempre la sensazione di essere fatti fuori, di essere ammazzati. La chiave dello sciamanesimo, della guarigione per via naturale, della medicina tribale e così via, è proprio questo. Cioè nelle tribù più primitive si viene liberati da degli influssi maligni, da qualche cosa che ci nuoce. Le malattie vengono inviate da qualcuno che in qualche modo ci vuole nuocere, ci vuole divorare. Quindi questa è una legge proprio del nostro inconscio. Noi ci percepiamo sempre oggetto di una qualche minaccia. E questa realtà nei film horror emerge nella forma più evidente, ma è rintracciabile, secondo me, in qualunque forma narrativa. E vorrei sentire a questo punto un amico, Antonio Tentori, altre volte abbiamo avuto ai nostri microfoni. Antonio, buongiorno. Buongiorno a te, Gianluca. Ecco, riesci a farmi tu una carrellata, visto che il tema di oggi è il cannibalismo. Nel film di genere tu ben conosci, qual è l'escursus di questo immaginario? Noi italiani in questo, devo dire, abbiamo un primato assoluto. Il film di genere cannibalico lo ha inventato un italiano. Sì, infatti. Innanzitutto è un po' da specificare filone cannibalico, filone zombie. Insomma, certo, è tutta un'altra cosa, chiaro. Hanno in comune ovviamente il mangiare... mangiare budella altrui. Esseri umani per sopravvivere. Però ovviamente un conto i rituali cannibalici compiuti dai cannibali in varie zone del mondo, un conto è ovviamente la visione fantastica, visionaria, horror degli zombie. Ma qui in Italia in effetti negli anni 70 è cominciato, nel 73 con Umberto Lenzi, che ha fatto un film che era un po' a metà strada tra i mondo movies dell'epoca, ossia quei film che andavano in giro per il mondo per visualizzare i vari riti dei popoli primitivi e appunto il nascente filone cannibalico. Quindi fece un film, Il paese dello sesso selvaggio, però poi il filone nasce successivamente con Ultimo mondo cannibale di Deodato e soprattutto esplode con... C'era, diciamo, un meccanismo di narrazione che più o meno era sempre lo stesso. Sì, assolutamente sì, c'è un gruppo di personaggi, insomma, di giornalisti o di turisti o quant'altro, che si trovano improvvisamente intrappolati in una situazione paradossale, senza via di uscita, in un luogo ostile, selvaggio, dove appunto vanno a che fare con questi cannibali. Ecco, è stato imitato poi questo filone, ha avuto degli emuli illustri, che un italiano si sia inventato il genere cannibalico, cioè la spedizione che va in terre selvagge e scopre che ancora esistono i cannibali. Naturalmente dava sfogo a tutte le possibili dimostrazioni splatter, però c'era qualcosa di profondo in sé, c'è questo timore per una civilizzazione che non riesce ad arrivare in ogni luogo del nostro pianeta. Sì, sicuramente questa caratteristica che emerge dai film cannibalici di Deodato, Lenzi, eccetera, è del tutto nostra, insomma, è un'invenzione italiana, come anche questo accade anche in altri filoni dell'horror, eccetera. Questo è più una contrariamente agli altri, appunto, agli altri filoni, è più un discorso tra virgolette realistico, nel senso che comunque l'horror ha a che fare con un orrore, no, scusate il gioco di parole, molto vero, molto autentico, perché insomma se ne è parlato appunto in una trasmissione fino adesso, sono situazioni realmente esistenti o sono esistite o tuttora esistono in varie parti del mondo. Grazie Marco Tentori. Professor Lusetti, come vedi siamo proprio in conclusione, sta scattando la sigla, noi abbiamo dei segnali continui dalle forme più disparate del raccontare umano, di verità profonde a volte che fanno anche molto male a doversele ricordare. Sì, io per concludere dico questo, che oltre alla sessualità la specie ha inventato un secondo contrappeso al cannibalismo, che è ancora più importante se possibile della sessualità, e questa è la coscienza, l'intelligenza intelligenza simbolica. Noi sappiamo che quando viene meno questo aspetto l'essere umano cessa di esistere in quanto tale, e la malattia mentale e la sofferenza mentale è proprio la prova, certo, di questo. Certo, questo perché non vorrei che il significato e le conclusioni di questa trasmissione è che possiamo cominciare tranquillamente a sbocconcellarci l'un l'altro. Grazie a Dio abbiamo anche la coscienza che ci permette di osservare con serenità quello che noi siamo, ma ci permette anche di comportarci da uomini civilizzati. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.